cosa. Ma scusa, da. Ma è un libro porno questo. Vabbè, ma è dalla Russia. Ma smettila. Cosa porno? Ma non è porno, è per bambini dagli 8 agli 11 anni. Come? Ci sono solo disegni. Sì, però scusa, sono disegni espliciti. Vabbè, i suoni li stavo facendo io. Ho capito, da. Come si dice ancora? Perché adesso in Russia in effetti l'hanno tolto dalla circolazione. Scusa, questo. Ho capito, era un libro di testo. Sì, sì, un libro di educazione sessuale. Tu che parli sempre di educazione sessuale ai bambini. Eccone un bel esempio. Vabbè, insomma, l'enciclopedia dai. Del sesso russo. Sì. Scritto in russo, non si capisce niente, però si capiscono bene i disegni. Guarda sì, qua, perché sì. A parte i caratteri cirillici. Sì, vabbè, ma mica guardi i caratteri cirillici. No, infatti, una volta che apri una pagina, guardi tutto. È il Kamasutra per bambini. Sì, ho capito l'educazione sessuale, ma qui sembra di leggere Iacula o Maghella, quelle robe. È lì. Un libro. Anzi, che peggio. Ti spiega per filo e per segno che cosa fanno gli adulti quando fanno l'amore. Sì, però lo spiega troppo nel dettaglio. Guarda qui, che roba. Vabbè, ma allora siamo alla radio, smetti, dai, inutile fare tutto sto cancan per dei disegni. Vabbè, voglio dire, meglio la radio in questo caso, in TV certe cose non si potrebbero proprio far vedere. Ma stai tranquillo, nessun bambino italiano vedrà mai questa enciclopedia, perché è stata messa fuori commercio, capito? Subito dopo essere uscita l'ha messa fuori meno commercio. Meno male, perché pensa il bambino Alberto le prese con un libro così, che idee si farebbe? Ma lui non interessa, lui c'ha altri fumetti, poi si li sogna di notte, no? Lui praticamente sta scrivendo il Tex Willer alla milanese. E ora, bambini, ricreazione! Bambino Alberto! Ciao! Bambino Alberto! Vabbè, quando sono contento di vederlo. L'enfasi, no? L'enfasi! L'enfasi con l'H. Enfasi. Scusate se mi intrometto, Stavo involontariamente ascoltando quello che stavate dicendo. Un libro per bambini, no? Sì. Però magari mi interessava. È il libro con. È un argomento serio, però insomma non è tanto per bambini, secondo me. Era un po' troppo esplicito, dai. È un libro di educazione sessuale, comunque, sì. Come? Sessuale? Che poi, ma in che senso? I russi, no? Sì. Il dada è anche il dadaismo, la parola deriva dal fatto che sono le prime sillabe dei bambini, ma non russi. Non russi, in generale. Sono le, allora! Vabbè, comunque niente, libro di educazione sessuale che spiega cosa fanno gli adulti in certi momenti, ma comunque a te non interessa, insomma. No, infatti, La roba è tipo il putantur di Kit e Tex. Ma faccia la pera a Carson e Tex Bill. No, quello no, perché il putantur di Tex e Kit o di Kit e Tex finisce sempre con esatto. La casa a dormire. E poi quindi... comunque io queste qui sono cose serie, non mischiamo le cose. Il Tex milanese che ti immagini tu non nel tuo sogno, eccetera, sogna. La fantasia, eccetera, non c'entra proprio niente. Guardate che con la fantasia si possono capire tante cose, e voi dovreste saperlo. Vabbè, e questo d'accordo. Ha ragione lui. Vabbè, cioè, sei ancora preso dalla passione per Tex, quindi nella versione milanese. Sei ancora qui. Sì, è ancora preso. Anch'io. Hai voglia, qui siamo solo all'inizio. Cioè, hai continuato solo a fare sti sogni. Sì, continuamente. L'altro giorno vi ho dato solo un accenno. Un accenno, perché i sogni. Che vedi cosa da dire? Per esempio. Ci sono anche gli altri personaggi del vero fumetto di Tex Willer, no? Certo. Anche loro milanesizzati, no? Sì. Attuati nel milanese. Capisci? Cioè, per esempio c'è Tiger Jack, no? Tiger, vabbè. Tiger Jack, che è un indiano. È un indiano. Un indiano col fiuto. Un cacciatore. Cioè, non si capisce cosa sa fare, no? Sì. Ma dove? No, questo nel reale. Nel reale, cioè nel fumetto. Nel fumetto, invece nell'irreale, del mio Tex Willer milanese, lui è un extracomunitario. Sì. Che non si capisce, che è una specie di aiutante, no? Aiutante muto. Ma di chi? Di Tex e di Kit, no? Ah, quindi sono interessato. E Kit faccia la piela a Carson e dice: uè, Tiger Jack, vieni qua che facciamo il putantour. Cos'è che fanno? C'hai i soldi, mi chiede se c'hai i soldi. C'hai i soldi. E Tiger Jack non ci viene mai, non lo pagano. Che lavoro fa? Tipo vende le rose, no? Ah, i ristoranti. Sì, va dove vanno. Non è un sudamericano, probabilmente. È un indiano, proprio. So. C'è un indiano puntini, esatto. Mentre Tiger Jack è l'altro indiano piuma. Esatto. Comunque, è un indiano proprio. Questo, poi c'è un altro personaggio importante, perché insomma, il figlio di Tex Willer, no? Kit Willer, questo lo Kit Willer. Kit Willer. Capito? Che in realtà non ha preso molto dal padre, no? Non è proprio, come dire, le caratteristiche dell'eroe. L'eroe indomito. Vabbè, perché invece Tex, insomma, questa versione di Tex. Ma cosa vuol dire? Ve l'ho già detto, ma allora, Tex beve, no? Appunto. Ha sodato questo? Sì. Invece il figlio è così di natura. Cioè, come? Di natura cosa? È un po', come dire, effeminato, no? Il figlio di Kit Willer. Cioè, lui si sforza di... Willer, no, scusate, non ci capisco più niente, perché Kit si chiama tanto Kit come Kit Carson. Eh sì, è come Kit Carson, che è praticamente il suo padrino. Ah, il suo padrino. Ma io voglio sapere, quello. Effeminato, cioè. Sì, allora lui si sforza di assomigliare al padre, no? Ma non ce la fa, capito? Nonostante Kit faccia da Pierla Carson, appunto, che è il suo padrino, faccia di tutto per tirare fuori l'uomo, no? Da Kit. Sì, l'uomo che c'è lui. Ma guarda che è una cosa che succede. Secondo me, vedi, tu fai un miscuglio nei tuoi sogni tra i fumetti che leggi e l'attualità. Ma come? Scusa, il figlio di Iglesias. Figlio di cotanto padre Enrique, lo conosci, bambino? A furia di sentirsi dire che ce l'ha piccolo, perché su internet è un sudamericano, ha fatto una dichiarazione ufficiale dicendo che lui ce l'ha piccolissimo. Ah, cioè lui ha chiamato l'ufficio stampa e gli ha detto basta, facciamola finita, dichiariamo a tutti che c'è un problema. Così Kit Wheeler, figlio di cotanto padre Tex Wheeler, capisci che problemi ha? Dovrebbe fare allora, lo stesso. Allora, qui il problema è uno solo: il problema è per Kit faccia la Pierla Carson. Perché lui sta storia del femminato, che praticamente lui sarebbe suo nipote, no? Lui non riesce a mandarla giù. Vabbè, ci credo. Sapete com'è lui, no? Un bauscia milanese lì. Cioè, non è tanto sensibile, non è quello il suo pezzo forte. Capisci? Cioè, questi qui, quelli che portano l'Apollo col collo alzato. Non è che li puoi aspettare, non capisco niente. Ma cosa strano, c'entra no? l'Apollo col vabbè? Ma poi porta il suo nome, capito? Kit, hai ragione, Kit, fa brutta figura. No, vabbè, ma non si può dire. No. Ma Cotto? No, non si può dire Cotto. Vabbè, ma alla fine che cosa succede? Stavolta che cos'è l'avventura, il sale dell'avventura? Un altro Pudantour con il figlio. No. Qui c'è, allora, Kit Carson ha detto a Kit, al bambino, al figlio. Kit, al figlio di Tex, suo nipote. Nipote. Kit! È ora che tu faccia il tuo battesimo della vita. Te l'ho detto. Capito? Lo portano a fare il puttantour. Ma no, che puttantour! Una roba molto più. Cioè? Pregio. Ha detto, uè, tieni pronto perché stasera andiamo al bingo. Ma come al bingo? Al bingo. Ma no. E lei, uè, Kit, è sbloccato. È come il saloon, capito? Il bingo è il saloon. Perché, uè, non è mica un bingo qualsiasi quello lì. È un bingo gestito da Cocoriti, no? Che per tradizione sono un po' ostili a Kit e Tex. Kit e Tex portano il distintivo e loro non possono toccarli, no? Quindi c'è un ambiente ostile. Ma vedi, è come nei veri western, alla fine è Milano, però insomma è Milano spara e Kit. No, lei questi qui poi non sparano, però appena entrano nel bingo della sala, tutti muti, no? Capito? Ah, come nei western, no? Che entrano i tutori della legge. I ranger, ma no, ma che tutori? No, cioè, un alcolista è un giocatore d'azzardo compulsivo? Sì. Eppure invadente poi. Sì. Quindi i cocoriti hanno sempre paura che i clienti se ne vadano. Clienti normali. Perché questi qui arrivano. A Tex prende il solito boccale di Negroni da un litro. Sì. Si piazza nella sala delle macchinette, delle slot. Sì. E lì vuole giocare solo lui, con tutte. Perché lui dice: qui se stasera c'è qualcuno che deve vincere, sono io. Quindi tutti fuori, se no faccio un casino e sparo. Anche se non c'è più la pistola. Cioè, Tex. Anche Tex gioca, non solo Kit. Col boccale di Negroni. È un gioco poco impegnativo, no? Non è che deve riesci a schiacciare il bottoncino. E poi un vero eroe. E Kit invece cosa no, fa? No, Kit gioca al bingo. È un giocatore di bingo. Lui si piazza in un tavolo, no? E poi pretende, e poi c'è il distintivo, di comprare le schede per giocare. Sì. Con i ticket. Ticket, i buoni pasto falsi. Quindi li procura Tiger Jack, che torna utile, vedi? Alla fine. Gli dà i ticket fotocopiati a colori. E poi ci sono le schede vicine, no? Quelle che dicono: questo qui è ancora un numero, vince, gliela porta. Dicono, ma cosa fa? Io c'ho il distintivo. Allora. Ah, ecco, così. Ah, prende le schede degli altri. Sì, allora i cocoriti si incazzano. Ecco. Si arrabbiano, no? Come dire. Questa roba qua del bingo sarebbe il battesimo di fuoco del figlio di Tex. Sì, perché a un certo punto i cocoriti inferociti, no? Ah, a questo punto Kit Carson faccia da pirla, no? Sì. Faccia da pirla Sei tutto bello abbronzato. Abbronzato, che cappellata viola, gelata dietro. Gel, si mette il gel? Voglio, c'è la fissa del gel, roba quasi compulsiva. Appena viene uno specchietto si fa una presina di gel. Se la mette, sempre dietro di qua, sembra che lo faccia con una perizia veramente. E allora cosa succede? Questo dice, si alza, va da Tex e dice, Tex. Sì. Tex non risponde perché praticamente è nel nirvana, no? Beh, che poi nel frattempo ha bevuto un'altra mezza di Negroni, quindi leggermente vigile, ma fino a un certo punto vigile, Tex, andiamo via. Quindi dove? Non ti preoccupare, tanto c'è lo scooterone fuori, lo guido io. Vanno, escono, partono, via. Il figlio era in bagno, perché Kit ha approfittato, mentre in bagno, via. Quindi cocoriti, inferociti, vedo quello lì, il figlio di Tex. Vabbè. Non c'è il distintivo. Sì. Quindi a tutti addosso a Kit. Ma vabbè, quindi l'ha ripetuto. No! Sì, l'hanno rapito, l'ho portato via di lì. Ma l'ha menato, cosa hanno fatto? Non menato, no, qui non si sa, è passata la notte. Poi la mattina dopo Kit ha telefonato a casa, no? Era abbastanza sollevato, ha risposto Kit faccia la pira, Carson, Perché vivo. Allora, dove sei? Cosa è successo? Allora, tutto abbastanza sereno. E parlava in spagnolo, con un'influenza spagnola. E ha detto che era lì con i suoi nuovi amici, che in fondo alla fine le cose si sono accordate, le cose che andavano bene a loro andavano bene anche a me. Cioè? E cioè non lo so, comunque è rimasto contento. Mancano 10 to now. Giorni alla fine del mondo.